Chrysler e Combine 600 e l'altro il 500. Boh, non riesco a capire per come funziona questo, ecco, adesso vi vedo, ma non c'è niente, ce ne sono tanti, tutto rifatto. Quando lo fanno? Fanno lo schiaccio. Fanno lo schiaccio. Comunque sta andando. E quindi niente, ecco, che strano, questo non so, non ha ecco questo, no, che strano. No, niente, fatto niente. Quindi senza ecco. Che strano. Quindi se loro sono con un metro quanto loro. Così hanno la modulazione. Però è sempre comprensibile. Sì, sempre comprensibile, però adesso rimane un po' troppo, hai capito? Se si metterla un po' bassa allora va bene. Guarda, allora subito, va. Capito, se lavora qua leggermente, se dovrebbe andare bene. Guarda, il microfono, che microfono è? L'Intec M600 con l'eco, che pure ne ho due, sto cercando di fare uno, l'altro dovrebbe ancora devo controllare, purtroppo terraformo ho pilotato problemi, solo che non so come funzionava qua era l'eco, non lo so, aspetta, controllo l'altro che lasciamo là sotto, devo aprire qua, non lo so. Ora è un cursore, no, che ha consumato il carboncino. Già fa, perché succede il raffetto questo microfono lì, eh. Apri! Vieni, dimmi. Ma se lo mandava all'amicizia, ma non me ne ha mai dato. Dimenticato, cazzo, laggiù il cavo, dimenticato, cazzo, ma l'hai detto, questo lo faccio, non lo so cosa stavo facendo, sono dimenticato, quindi quando entro su internet che me ne ricordo, se c'è una testa, proprio laggiù il cavo, laggiù proprio un cavo incredibile. Ma non so come si chiama, se no sarà premandata io. Come te lo dico, qua in Italia, adesso qui la gente lo sa. No, meglio di no. Spero che stia chiamando il bambino, per favore, un attimo, più lontano, che non so se vuole.